La benzina, dunque, la benzina sopra i 2 euro è il titolo d'apertura oggi del Corriere e di molte altre testate appunto quotidiane. Record in Italia nei distributori fuori dalle autostrade. E questa è come dire, il segno, la soglia, l'indicazione non psicologica, ma non solo, visto che stiamo parlando di un record che poi si paga e si paga nel rientro ormai imminente con questo fine settimana. Poi l'UE e Atene, così il Sole 24 Ore questa mattina è l'UE ad Atene, aiuti dopo i tagli, quindi Juncker e Merkel rinviano a ottobre le richieste greche. Ieri mattina vi abbiamo letto una parte dell'intervista che il primo ministro greco Samaras ha concesso al quotidiano tedesco Bild. Abbiamo detto come quello fosse di fatto un messaggio davvero alla nazione tedesca. Bild è un quotidiano che vende 5 milioni di copie, forse uno dei maggiori, anzi assolutamente per vendite, dei maggiori quotidiani del paese. Il messaggio che Samaras ha rivolto ai tedeschi, quindi all'opinione pubblica, oltre che naturalmente ai suoi interlocutori istituzionali con i quali ha tutta una serie di incontri, è proprio ce la faremo, siamo intenzionati a pagare il nostro debito. Quello che appunto Samaras ha chiesto ieri è tempo. La Grecia dunque chiede più tempo per le riforme, ma il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker e il cancelliere tedesco Angela Merkel frenano. Ogni decisione è rinviata a ottobre, dopo il rapporto della Troika. Il premier greco Antonis Samaras dice: ce la faremo comunque. Ecco, in questa risposta greca sembra quasi prevalere appunto l'elemento del freno, l'elemento del no. In realtà personalmente non ne sono così convinto, la sensazione che se appunto Berlino avesse voluto stringere su questo fronte avrebbe avuto anche gli strumenti verbali per farlo in maniera più esplicita. Tant'è, insomma, è un gioco delicato, anche doloroso, che riguarda la posizione della Grecia, la posizione debitoria, la fragilità della Grecia, ma non solo. E proprio su questo tema è oggi l'editoriale, il fondo di Adriana Cerretelli, appunto sulla prima del Sole 24 Ore. Il titolo è: se Berlino torna alla Realpolitik. Scrive Cerretelli: la quiete dopo la tempesta dovrà ancora attendere. Ancora non si sa quanto, però dopo una torrida estate che alla prova dei fatti si è rivelata meno massacrante del temuto, si intravede un autunno sempre caldo per l'euro, ma più governabile e governato che in passato. Un biennio abbondante di bollenti spiriti sembra ora lasciare il passo a una gestione più pacata, razionale ed equilibrata della crisi. Estremismi, dogmatismi, populismi non sono certo morti, e nemmeno la recessione economica e la disoccupazione, che contribuiscono ampiamente ad alimentarli. In Germania la Bundesbank continua ad alzare la voce con tutti, BCE compresa, insieme a una parte del Bundestag, entrambi arroccati sulla più pura ortodossia. Però il dibattito tedesco si sta facendo più articolato. Soprattutto Angela Merkel pare essersi convinta che per lei e la sua riconferma alla cancelleria sarà meglio presentarsi alle elezioni del settembre del 2013 con in tasca l'euro piuttosto che senza. Il collasso della moneta unica provocherebbe infatti uno shock dai costi enormi e soprattutto dalle conseguenze imprevedibili in Europa e fuori. Ecco, uno dei passaggi proprio dell'intervista di ieri, dicevamo, sulla Bild, era legato proprio a quell'elemento, a questo elemento, cioè del reciproco interesse e di come ormai ampia parte della stampa tedesca sia sempre più, diciamo, disponibile a sottolineare quello che è un rapporto di interesse reciproco. All'inizio dell'estate spesso si leggevano appunto frasi anche veloci, molto tranchant sulla Grecia: la Grecia è fuori, quale può essere il danno per la Germania? Beh, progressivamente la questione invece è emersa con forza, e l'interesse tedesco dunque è stato affermato con molta più chiarezza. Il collasso della moneta unica, diceva appunto Adriana Cerretelli, provocò provocherebbe uno shock dai costi enormi, soprattutto dalle conseguenze imprevedibili in Europa e fuori. Non ultima la reazione dell'America di Barack Obama alla ricerca di una difficile rielezione in novembre, che tutto auspica fuorché il marasma europeo e i suoi inevitabili contraccolpi negativi su un'economia americana che di sicuro non scoppia di salute. Ecco il grande piano di salvataggio dell'euro e quindi i passi agostani verso questo obiettivo. Vi segnalo anche su Italia Fondo Salva Stati, sempre nella prima del Sole 24 Ore, un articolo da firma di Romano Prodi, Alberto Quadro Curzio, che riprendono appunto un tema delle misure per superare la crisi. Spiegano che, come nel recente incontro con il presidente Monti, il premier finlandese abbia espresso nuovamente scetticismo sulle vendite a prezzi di mercato, suggerendo di mettere i beni pubblici a garanzia dell'emissione dei titoli di Stato. Una proposta che, scrivono Prodi e Quadro Curzio, appare simile a quella che un anno fa avanzammo su queste colonne con l'articolo Euro Union Bond per la nuova Europa. E dunque oggi, invece, che ritroviamo nelle pagine interne del Sole, è Euro Union Bond percorso obbligato. L'idea di obbligazione dell'Unione ha trovato eco nel fondo EFSF, ma ora occorre rilanciare. Ok, dunque, questo per la prima, i grandi temi dell'Europa, appunto, raccontati dal Sole 24 Ore. E dicevamo la benzina per il Corriere della Sera, così come per La Stampa, che è benzina shock che sfonda i 2 euro questa mattina. Intanto dunque il nuovo record storico viene raggiunto nelle regioni del centro. Il caro carburante costerà alle famiglie 768 euro in più all'anno. Peter Bescapè fa una faccia preoccupata che condividiamo e intorno a questo ci sono anche, insomma, gli interrogativi ricorrenti su un prezzo che, come Mario De Aglio definisce questa mattina sulla Stampa, non è trasparente. La benzina oltre la soglia psicologica dei 2 euro al litro è un pessimo biglietto d'auguri per il dopo ferie in un paese come l'Italia, traumatizzato da una grave e prolungata congiuntura negativa. Quel prezzo della benzina oltre euro 2.0 potrebbe diventare lo spartiacque tra speranze e frustrazione, tra voglia di ripartire e rinuncia a combattere, tra risposta costruttiva alla crisi e il mugugno rassegnato. Per questo è opportuno guardare bene dentro a questo prezzo chiave. Si scopre così molta complessità, troppa oscurità e insufficiente trasparenza. Di certo, più della metà del prezzo, ossia più di un euro di quanto pagato dagli automobilisti per un litro di benzina, è costituito da imposte. Questo è uno delle riflessioni che troviamo su questo tema. Anche La Stampa, sempre sulla Stampa, invece un bilancio sulla terra e sui consumi e i beni naturali. Da oggi la terra viaggia in riserva, risorse esaurite. È il conto del Global Footprint, consumati in 234 giorni i beni naturali dell'anno. Una foto che l'accompagna è quella dell'agricoltura alle prese con la siccità, un agricoltore in un campo davvero riarso. Allora direi che sentiamo, a proposito di clima, invece sentiamo non tanto il clima ma il meteo, poi proseguiamo con le pagine dei quotidiani in edicola. In primo piano. Eccoci qua ancora alle 7.32. Lester Brown, economista, scrittore, fondatore del World Watch Institute, uno dei padri dell'ambientalismo contemporaneo. A proposito di questa giornata in cui in 234 giorni si registra il consumo dei beni naturali a disposizione dell'umanità in un anno. Dunque da oggi la terra viaggia in riserva, le risorse sono esaurite, ma cambiare si può, racconta nell'intervista appunto che ha rilasciato per La Stampa Lester Brown. Dice: cambiare si può, l'abbiamo già fatto, possiamo rifarlo. Che cosa caratterizza questo Earth Overshoot Day da quelli che l'hanno preceduto. Brown spiega il fatto che l'eccesso di consumo di risorse del pianeta da parte dell'umanità si sta ripercuotendo concretamente nelle nostre tasche, così l'impennata dei prezzi alimentari, quindi un fatto che possiamo tangibile, che possiamo avvertire. E come? Piantiamo troppe sementi, spiega, peschiamo troppo pesce, alleviamo troppo bestiame, prosciughiamo troppa acqua, produciamo troppi gas inquinanti. La conseguenza è la siccità, l'eccesso di consumo di beni alimentari, il boom dei costi che rende più difficile acquistare il cibo da mangiare. Insomma, non è più da un pezzo un tema di filosofia ambientale, ma di consumi, di distribuzione naturalmente, e di conseguente grave instabilità. C'è una via d'uscita, chiede Maurizio Molinari a Lester Brown, e lui risponde: certo che c'è, ed è procedere in fretta in una duplice dimensione: pianificazione familiare per ridurre la crescita della popolazione mondiale, drastica ristrutturazione dell'industria per ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera in maniera davvero significativa. C'è una ricetta possibile, insiste Molinari, per consumare meno? In realtà, spiega Brano, è già accaduto. Negli ultimi 6 anni in America il consumo di carne è diminuito dell'11%. È la dimostrazione che se una società si rende conto che gli eccessi di consumi creano danni concreti, riesce sempre a tornare indietro. Serve però la consapevolezza collettiva. Certo, la diminuzione di consumo di carne in America serve a poco se poi nazioni come Cina, India, il consumo si impenna a causa della sovrapposizione tra crescita della popolazione e degli acquisti. Insomma, una terra in riserva in questa giornata di agosto, lo ricordo, in 234 giorni, secondo il titolo in prima pagina della Stampa e secondo il rapporto del World Watch Institute e del Global Footprint. Dunque la terra viaggia in riserva. Crescita, arriva il piano Monti, l'apertura per Repubblica, energia, trasporti, niente IVA sulle infrastrutture, domani il CDM, il Consiglio dei Ministri, all'interno del quale dovrebbe venire affrontata anche la questione della tassazione per i terremotati in Emilia. Naturalmente la benzina, qui il titolo è un salasso da 2 euro al litro nel centro pagina, poi anche uno sguardo sulla politica internazionale, l'Italia in campo per la Siria, aiutiamo i ribelli. Da una parte in questi giorni abbiamo registrato, come dire, uno spostamento piuttosto esplicito dalle posizioni quantomeno di formale equilibrio e distacco tra le parti a posizioni invece esplicitamente a sostegno della ribellione. In questo caso il ministro Terzi avvia una serie di incontri in sede UE e parla attraverso appunto Repubblica in questo suo articolo di come preparare un futuro senza Assad. Il ministro degli esteri dice: la crisi siriana è giunta a un punto di svolta e può essere una svolta tanto per il popolo siriano che ha subito sofferenze e violenze intollerabili quanto per la regione. Il regime di Assad infatti, dopo aver provato invano per contenere l'opposizione a giocare sul divide et impera interno e sullo spauracchio del fondamentalismo islamico e del terrorismo, è ricorso al tentativo di regionalizzare la crisi alimentando scontri al confine con la Giordania, il Libano e la Turchia. Ecco, il Libano che appare proprio in queste ore, quasi il naturale punto di sbocco di questa crisi che ormai dura da più di 17 mesi. E a questo proposito passiamo allora a segnalarvi su Avvenire di questa mattina: Siria, il sangue contagia il Libano, già 12 morti oltre confine, l'Iran dice puniremo l'Occidente, nuovi bombardamenti intanto a tappeto a Damasco, sui quartieri in rivolta, poi rastrellamenti casa per casa, esecuzioni sommarie, ucciso nella sua abitazione anche un giornalista antiregime, oltre 100 i morti. La Francia ammette aiuti non letali alla rivolta, mentre l'Iraq chiude un valico lungo la frontiera. E da Beirut, dunque, città che come dire, storicamente, a parte per la vicinanza fisica, stiamo parlando di circa 180 chilometri dal confine siriano, ma poi per i legami storici tra i due paesi e per le presenze appunto politiche che li controllano, è considerato una, di fatto da anni, una succursale siriana. Da Beirut, dunque, Susan Dabbous scrive: ufficialmente sono 37.000, verosimilmente superano i 50.000. I libanesi sono convinti che siano più di 2 milioni, ma da qualsiasi punto di vista li si osservi, i profughi siriani in Libano vengono percepiti come un pericoloso problema di sicurezza interna. Rispetto agli altri stati confinanti, solo il paese dei Cedri, dunque il Libano, si è rifiutato di allestire campi e tendopoli, temendo non solo di mettere a repentaglio il proprio equilibrio confessionale con nuove ondate di sunniti, ma anche temendo un esodo di palestinesi siriani verso i già sopravvollati campi profughi dei loro compatrioti in Libano. Insomma, una corsa che già si sta verificando. Secondo stime dell'Agenzia per le Nazioni Unite per il soccorso dei profughi palestinesi, sarebbero giunte più di 3.000 persone nelle ultime settimane. Si tratta per lo più di profughi scappati dopo i violenti bombardamenti del 3 agosto scorso nel campo palestinese di Yarmouk, la provincia settentrionale di Damasco. Sullo stesso tema anche una, e dall'altra parte, diciamo geograficamente, rispetto alla frontiera tra Siria e Libano, la questione curda, quindi il sogno di uno Stato, passa dalle macerie siriane. Le frontiere si sfaldano e l'autonomia nell'area è sempre più forte. E quindi a nord la Siria confina nel nord-est e nel nord tra Turchia e Iraq, ma per entrambi i paesi questo significa essenzialmente Kurdistan. E così racconta Giordano Stabile oggi sulla Stampa: a Rabia, valico di frontiera tra Siria e Iraq, non sventolano più bandiere siriane o irachene. Da una parte ci sono i peshmerga curdi della regione autonoma del nord dell'Iraq, dall'altra gli uomini del PID, il Partito Democratico Curdo Siriano, cugino stretto del PKK di Öcalan. Insomma, l'abbiamo detto tante volte come la Siria, un paese di dimensioni significative, di popolazione piuttosto ridotta, sia davvero sia stato almeno, visto, forse si deve dire, un collage di culture, religioni diverse, e che la sua dissoluzione di sicuro mette in fibrillazione tutti gli stati confinanti, con delle ragioni appunto molto solide, molto molto urgenti. Basta vedere appunto il caso del Libano da un lato, del mondo curdo dall'altro. Questo dunque, riprendendo lo spunto, abbiamo detto, dalla prima di Repubblica, Giulio Terzi, ministro degli esteri, che racconta la posizione italiana rispetto alla Siria. Vediamo anche altre prime pagine. Il Messaggero: a tutto campo, benzina mai così cara, record fuori dalle autostrade, il gasolio tocca 1,843, e segnala anche che nel frattempo la Francia taglia le accise e mantiene così il controllo sui prezzi. Una miscela esplosiva di petrolio e tasse, così Michele Di Branco. Se lo dicono pure gli esperti, forse occorre rassegnarci. 3 giorni fa a Rimini, al meeting di CL, l'amministratore delegato dell'ENI, Paolo Scaroni, ha detto che la miscela esplosiva fatta di caro petrolio, dollari in aumento e accise farà crescere ancora i prezzi. Una facile previsione alla quale il numero uno del cane a sei zampe ha voluto affiancare un numero impressionante. In un anno i consumi dei prodotti petroliferi sono crollati del 9%, una cosa che non si è mai vista, ha riconosciuto il manager appunto, segno che la gente soffre in modo particolare in questo momento. Sì, d'accordo, prosegue Di Branco, il greggio vola, la moneta americana si apprezza, ma mai come in questa circostanza il principale responsabile dell'annunciato sfondamento di quota 2 euro per litro è il fattore tasse. La benzina dunque, ma anche per il quotidiano di Roma, crolla al pincio il muro del Valadier, un tesoro da proteggere. Il rapporto tra la pianura e i rilievi è da sempre un tema dell'architettura romana, talora svolto in maniera più che mirabile e tra altre occasioni invece con degli esiti tragici. La salita del Pincio, come la volle l'architetto Giuseppe Valadier, una realizzazione del pur breve periodo napoleonico, è tra le bellezze più celebrate di Roma. Ieri, improvvisamente, non siamo nuovi a questi eventi, il crollo del muro che letteralmente si sbriciola, danneggiato uno dei tornanti verso Piazza del Popolo. Il sindaco Alemanno dice: erano già stanziati i fondi per il restauro, ora però sono bloccati. Umberto Broccoli, che non è solo conduttore radiofonico ma è nella sua veste appunto di sovrintendente per i beni culturali, dice: tutta colpa del mix di caldo e neve. È un'ipotesi possibilissima, il clima del resto sta cambiando, chi ha progettato Roma nel corso di questo millennio lo ha fatto tenendo conto del clima. Michelangelo, quando progettava, non lavorava a Oslo ma a Roma. Cambiano i materiali, cambia la resistenza, cambia l'impasto stesso della malta, cambia tutto. Qualcuno, all'idea che a causare il crollo sia stato il caldo e la neve, però sorride. Facciamolo sorridere, risponde Broccoli, ma è fuori discussione che il Colosseo sia stato costruito in un certo anno e in un certo clima, così come è vero che molti alberi, quando a Roma è nevicato, non hanno retto al peso e si sono spezzati. Eppure si trattava di abeti romani, però, che la neve l'hanno conosciuta ben poco. Siamo passati dai meno 5 di febbraio ai 40 di questi giorni. Se è per questo, anche molti palazzi e cornicioni non hanno retto al freddo, all'escursione termica. Fate caso a quanti ponteggi ci sono in giro per la città. Dunque il crollo, che è un crollo di una parte, ovviamente, di un luogo così simbolico, così storico per la città, ma che ancora una volta sottintende il grande tema del cambiamento del territorio, della prevenzione. Dal Messaggero una ultima segnalazione, poi sentiamo anche naturalmente gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Una segnalazione che ci porta alla presenza dello squalo. Squalo a 10 metri dalla riva, è terrore a Ostia, poi tutti al mare. Ne vengono uccisi tra i 7 e i 10.000 al giorno, secondo gli ultimi dati. Nei mari del mondo la pesca degli squali di ogni genere e di ogni famiglia ha ormai la dimensione della strage. E nonostante questo fanno ancora paura, come dimostra quel che è avvenuto sulla spiaggia di Ostia, dove ieri ne è stato avvistato uno, dopodiché se n'è andato e nulla è accaduto. 7:45, aggiornamenti per chi è in viaggio. In primo piano. In queste settimane gli incendi fanno davvero parte della comunicazione sul traffico, e questo naturalmente, siccome non è che tutti i boschi, i campi siano accanto a un'autostrada, vi dà l'idea di quanto sia acuta questa crisi, questa emergenza. Ma andiamo avanti, eravamo a Roma e ora invece procediamo spostandoci a Venezia attraverso l'Unità, che accanto al titolone sulla benzina 2 euro allarme, invece anzi sotto al titolo d'apertura, ha un'immagine che ha una sua storia ed è quella che racconta la cosiddetta signora del tricolore. La signora del tricolore era quella signora che di fronte alla festa appunto separatiste, secessioniste veneziane della Lega esponeva il tricolore, suscitando l'attenzione dei fotografi ma anche tutta una serie di polemiche in città. Ecco cosa accade. Maroni dice stop alla festa in Laguna e la signora del tricolore dice viva, era un affronto alla città e all'Italia. Rottamato il rito padano a Venezia, così scrive Tullia Fabiani appunto nella pagina politica dell'Unità. La nuova Lega dopo 16 anni archivia la festa. Tosi rimanda a un gran raduno veneto, Maroni dà appuntamento al Lingotto. E la signora che sfidò Bossi col tricolore, Lucia Massarotto, dice alleluia. Io mi affacciavo di fronte al palco, ma non ho mai risposto alle provocazioni. Col tempo il mio vessillo non è stato più l'unico. Lucia Massarotto, dal 97 al 2011, ha assistito ogni anno alla manifestazione leghista organizzata in Riva Sette Martire, mentre Umberto Bossi arringava il suo popolo, lei dalla finestra sventolava il tricolore. Adesso, saputo che lì la festa padana non si farà, dice alleluia. Manifestare, d'altra parte, però, è un diritto, perché la Lega non dovrebbe farlo? La interroga la Fabiani. Certo che può farlo, ma io posso dissentire e manifestare il mio dissenso. L'unico modo che avevo per farlo era esporre la bandiera italiana per ricordare loro che noi siamo italiani, ne siamo fieri. Inoltre, aggiunge, Riva Sette Martire è il luogo meno adatto a certe manifestazioni, è il luogo dove 7 giovani partigiani vennero giustiziati dai tedeschi. Come fu accettata, quali reazioni provocò questa scelta sua, della signora e della famiglia, di esporre il tricolore? Ci furono critiche anche dai concittadini? Certo, risponde, qualcuno mi ha criticata, sono stata anche denunciata da un esponente della Lega locale per uso improprio della bandiera, forse perché voleva la mettessi dove diceva il suo capo, dove una delle frasi più o meno note di Bossi: meno male invece che anno dopo anno le bandiere alle finestre si sono moltiplicate e con esse il dissenso. Sulla Padania oggi la questione è affrontata però nelle pagine interne. La festa dei popoli si celebrerà il 7 ottobre, anniversario di Lepanto. La segreteria federale del Carroccio conferma l'appuntamento il 28 e il 29 settembre, tutti al Lingotto di Torino. Insomma, la questione viene portata discretamente nelle pagine interne. Ancora altri temi, altre aperture. Il Giornale questa mattina, il riposo St. Moritz, la foto è quella di Mario Monti, il titolo è le vacanze da 10.000 euro la settimana, tanto ha speso il premier solo per l'affitto della casa. Eppure c'è chi lo racconta ancora come l'uomo sobrio che mangia la polenta in punta di forchetta, e scrive Il Giornale, siamo al regime. Il Giorno, dalla follia benzina, in questo caso si parla di follia benzina oltre i 2 euro, a centropagina il ritorno delle miss. Insomma, sognare non è diventato per fortuna vietato, il ritorno delle miss è il ritorno di un appuntamento a proposito di tradizioni. Montecatini, le ragazze in cerca di un sogno. Un sogno che inizia appunto con un concorso di bellezza, si alza il sipario sulla kermesse con una parola d'ordine: spazio alla bellezza interiore. Questo è appunto il titolo di questa mattina su questo tema. La doppia pensione di Fini e C per Libero, la Fornero sta a guardare. Oltre al vitalizio, centinaia di parlamentari avranno anche un ricco assegno pagato coi contributi figurativi, cioè da noi, e il governo sulla previdenza rinuncia a tagli per decine di miliardi l'anno. Questo è il Libero questa mattina in edicola. Insomma, storie che ci portano, al di là di quest'ultimo appunto della politica, anche sul territorio, una scelta che continua a fare il secolo XIX, che in prima pagina questa mattina, oltre che dando come tutti spazio al tema della benzina, parla delle ronde di solidarietà per i giustizieri del Levante. Il caso del marocchino massacrato a Cicagna, dice, volevano ammazzarmi, racconta la sua verità e registra il quotidiano appunto ligure una grande espressione, manifestazione di solidarietà per chi ha picchiato, per chi ha mandato all'ospedale questo appunto marocchino che è stato accusato dai cittadini del paese di essere autore di diversi furti. Parleremo di questo a partire dalle 8:20, sarà con noi il sindaco di Cicagna, cercheremo di capire con lui insomma quali ragioni, quale situazione viene percepita, vissuta in alcuni / molti piccoli comuni italiani. Con questo abbiamo concluso le prime pagine. Voglio però segnalarvi storie che vanno avanti e che riguardano altri, diciamo, grandi temi di queste giornate, uno dei quali è sicuramente la contesa, la grande contesa sugli smartphone, Apple Samsung, dunque lo scontro che cambierà il copyright. Continua l'attesa per la decisione, il colosso americano, quindi Apple, chiede ai coreani un risarcimento da 2,5 miliardi per avere copiato l'iPhone. E l'approfondimento sulle ragioni di questa contesa e sugli effetti che la decisione potrebbe avere oggi sulle pagine del Sole 24 Ore, in un articolo a firma di Luca Tremolada. Un compito improbo viene definito quello affidato all'ago della bilancia. L'ago della bilancia, peraltro, in un caso tra grande società americana e grande società coreana, affidato al giudice statunitense di origine cinese Luci Ko, che presiede la giuria che deve appunto pronunciarsi. E come scrive Tremolada, dice: un compito davvero improbo, non solo per la giuria chiamata in queste ore a pronunciarsi sul processo del secolo in tema di tecnologie, ma anche per la stessa Luci Ko, il giudice che di fronte a una richiesta di 75 pagine di obiezioni presentati ai legali di Apple ha sbottato con un "ma vi siete fatti di crack", che vi abbiamo citato anche ieri. La domanda, al di là dei toni, è comprensibile, dice Tremolada. Questa guerra di innovazione tra giganti dell'elettronica di consumo è davvero una materia da avvocati? Destreggiarsi tra prototipi, prodotti, relative regole di tutela del copyright non è mestiere neppure per industriali, per industrial designer. Ha senso, si domanda al professore della Stanford Law School Mark Lemley, lasciare queste decisioni a una giuria generalista, cioè fatte di persone appunto pescate dal pubblico e di non specialisti, costringerli dunque a distinguere tra ispirazione e copia, tra il ripasso a carta carbone e il remix creativo del giurista Lawrence Lessig? Ecco, per i legali di Apple basterebbe tener conto della cronologia degli eventi e affidarsi al buon senso. Quando nel 2007 Steve Jobs ha svelato al mondo il primo iPhone, i telefonini avevano tastini di plastica e suonerie polifoniche. Apple non ha inventato gli schermi tattili, che oggi sono lo standard degli smartphone, ma ha stimolato il sistema delle applicazioni, la trasformazione cioè del telefonino in una piattaforma di servizio. Pochi anni dopo la presentazione a San Francisco, le vetrine degli smartphone hanno cominciato ad assomigliarsi un po' tutte: tavolette super sottili, senza tasti, animate da icone. Insomma, a decidere comunque saranno loro, gli 8 giurati del Tribunale di San José. Il loro verdetto, sostengono gli esperti, cambierà il volto degli smartphone nei prossimi 10 anni. Non solo e non tanto per l'ammontare dei risarcimenti, quanto per le ricadute che questa sentenza avrà su tutto il mercato. Un esempio: c'è chi sostiene che a pagare il conto più salato sarà in realtà Google. Samsung è il più grande produttore al mondo di telefonini che montano il sistema operativo Android. Circa 7 smartphone su 10 girano appunto con l'Android, il resto è appannaggio della mela di Cupertino. Se dovesse prevalere Apple, gli avvocati di Cupertino potrebbero portare in tribunale per violazione di brevetto tutti i produttori che usano il sistema operativo di Mountain View. Insomma, una sentenza ormai imminente, con implicazioni davvero pesanti, interessanti anche sul fronte dell'industria di consumo e l'elettronica. Siamo quasi in conclusione, vi anticipo con una intervista che oggi appare sulle pagine di Avvenire. Il capo della Protezione Civile Gabrielli dice: pioggia, l'Italia oggi è fragile come nel 2011, quindi torniamo in Italia e torniamo, vi anticipo in questo modo il tema che andremo a affrontare più tardi. Il capo della Protezione Civile dice: incendi e troppe incurie, la situazione è preoccupante. Bene, per ora ci fermiamo, sono le 7:57, in linea naturalmente a GR24, noi ci risentiamo a partire dalle 8:20, a dopo.